Buon pomeriggio, io mi sono già presentato prima quando vi ho chiesto di avere un po' di pazienza. Come vedete, quel quarto d'ora più o meno è bastato. Allora, ricomincio da capo facendo il padrone di casa e il genero di casa. Che questa iniziativa abbia avuto successo, credo che sia già un dato di fatto, proprio perché ci sono stati questi avvenimenti di cui vi ho parlato poc'anzi, che voi siete stati in qualche modo previdenti e fortunati ad arrivare a questo. Ma io ho dunque per non perdere troppo tempo. Allora, la biblioteca civica Amoretti, come le biblioteche civiche torinesi, organizzano un ventaglio di proposte culturali di vario genere. Tra le tante ci sono anche le presentazioni di libri. Di solito noi, bibliotecari, quando organizziamo eventi culturali, pensiamo a eventi per manifestazioni per bambini e ragazzi, oppure a manifestazioni per gli adulti. Questa è un'iniziativa, io credo, che per certi versi è davvero particolare, perché è un'iniziativa in qualche modo che costruisce un ponte tra due mondi che rispetto e come pubblico sono due mondi di solito differenti, da un lato i bambini e dall'altro gli adulti. Ma in questo caso sia i bambini che gli adulti sono soggetti che entrano nello stesso modo, per certi versi, anche se poi con modalità diverse, in quel mondo, in quell'evento che è quando due genitori si separano. Argomento delicato, argomento su cui si potrebbero fare moltissimi ragionamenti e spendere parole. Credo che questo libro che ho in mano, Sua Eccellenza Sesto Serenissima, in qualche modo sia una prima volta, un libro che, scritto da una bimba, legge dal suo punto di vista quel momento delicato che è appunto la separazione dei genitori. Ma adesso mi sono già dilungato troppo e passo subito avanti a presentare i veri protagonisti dell'evento culturale, che sono Marco Columbro, basta il nome, credo che sia inutile spendere altre parole, Massimo Cipro, che è difficile da presentare in quanto che è persona che ha nella sua vita diverse più ruoli, è un medico, è un psicoterapeuta, è un ricercatore ed è anche scrittore e poi anche presidente dell'Associazione Democrazia. E poi Mariano Togliatto, per chi non lo conosce, Mariano Togliatto è consigliere regionale, eccetera, eccetera, eccetera. Boh, io direi che passerei subito la parola a Marco Columbro, anche perché voi non siete qua per sentire tutto questo e lo so, e non mi offendo. Claro. Buonasera a tutti, mi sentite, no? Credo. Allora, innanzitutto grazie di essere qui quest'oggi, voi siete fortunati perché avete un posto a sedere, un platform, perché molte persone altrettante sono sopra, non molto felici di essere state escluse da questa giornata così interessante, ma è altresì interessante il fatto che molte persone siano affluite a questa iniziativa, perché significa che evidentemente questo libro ha toccato il cuore di molte persone, è un libro che ha colto nel segno. E io sono felice di essere qui quest'oggi soprattutto per due motivi. Il primo è che di un libro di questo tipo ce n'era assolutamente bisogno. Finalmente una denuncia fatta dalla diretta interessata, una denuncia garbata ma decisa e ricca di originalità allo stesso tempo. Una bambina che vive il dramma della separazione dei genitori senza poter essere lei a decidere con chi continuare a vivere. È altresì drammatico il modo con il quale viene trattata in particolar modo da uno dei genitori, dalle istituzioni, e che non si preoccupano minimamente di ascoltare i desideri e le volontà della piccola Gegè, ma al contrario viene considerata al pari un soprammobile che deve seguire il genitore che se ne andrà di casa. Questa denuncia è in realtà un grido di dolore e deve far riflettere sia i genitori che gli organi preposti a dirimere le cause di separazione, che i figli sono prima di tutto esseri umani che hanno diritto di decidere con la loro testa con chi desiderano continuare a vivere senza subire imposizioni di sorta. Il secondo motivo che mi rende felice di essere qui quest'oggi riguarda Gegè, la protagonista, una bambina, oggi un'adolescente, che trova il coraggio e la forza interiori per trasformare la propria sofferenza, nata da una dura prova di vita, in atto creativo e che serve soprattutto, ad esempio, per gli adulti. La creatività è lo strumento che Gegè ha scelto per far sentire la sua voce, per evitare quali sono i propri diritti, e questo dovrebbe far riflettere tutti quegli adulti, genitori, avvocati, giudici, che dovranno decidere della sorte della piccola Gegè. Ed è proprio attraverso una favola, strumento di divulgazione di informazione antico quanto l'uomo, ma anche quello che io trovo più pedagogicamente corretto, poiché la favola, come grandi miti della storia, voi sapete, sono sempre stati frutto di una verità spesso nascosta ai più. Attraverso l'uso dell'alfabeto fiabesco, Gegè ci mostra tutta la propria sofferenza, ma anche la cecità dei genitori, della legge, e della trova della dimensione più sottile, che poi è la dimensione dove sussistono le cause prime. Gegè trova le risorse dell'anima, e cioè l'amore, la compassione e soprattutto il perdono. Valori universali che sono sempre più assenti, ahimè, nella nostra vita quotidiana, ma che le permetteranno di far fronte ad una così grave crisi esistenziale. Come ho scritto nella presentazione del libro, Gegè è uno di quegli esempi oramai sempre più diffusi in tutto il mondo di un'anima altamente evoluta, incarnata in un corpo di bambina, che in quest'epoca di grandi cambiamenti epocali decidono di venire sulla Terra per dare il loro contributo, per aiutare un'umanità sempre più confusa, destabilizzata e in preda a mille paure. Non è quindi un caso, perché io nel caso non ci credo, che Gegè abbia scelto di nascere in quella famiglia, con quella madre, con quel padre, e vivere l'esperienza dolorosa della separazione dei genitori. Chissà, forse questo era il primo compito che quest'anima si era preposta di affrontare atterrando su questo pianeta. Bene, il problema lo ha sollevato, pronto? In modo molto giusto, in modo molto corretto, ma adesso la palla passa a noi adulti e dovremo dimostrare di essere all'altezza di questa grande anima. Quindi a me non resta che ringraziare Gegè per il messaggio d'amore che ha regalato a tutti noi. Grazie. Adesso però leggiamo qualche brano dal libro. Salute, guarda che dovrò sparare gli occhi, poi lo voglio mandare incontro con Instagram, ammazza. Si può un... no? Non è possibile, proprio sparare gli occhi. È come un laser questo, ammazza ragazzi. Ci mettiamo qua, poi dopo il pubblico di restano. Ci vedete, no? Va bene? Dunque, leggiamo qualche pagina. Io ho bisogno di una bambina che mi aiuti, che reciti con me, deve essere una che sa recitare alla grande però, eh. C'è una bambina che vuole, sai recitare tu? Sì, c'è. Vieni qua, vieni. Via, tu dove via? Allora, ti chiami? No. È la bimba Gegè, allora che ho scoperto, siccome la mia gente rimane anonima, e allora si è fatta scoprire subito così d'amblè. Bravo. E sai anche recitare? Ovviamente. Mi ha fatto il film perché sennò pensa. Scusa, eh? Allora, tu sei pronta? Sì. Vorrei spostare la voce? Accordiamo le voci? Va bene. Accordala. Accordato. Allora, sei pronta? Prego. Allora, qui facciamo, siamo, ti ricordi quando la prima c'era, quando il corsetto parlava, no? Tu eri sconcertato, cioè, come il corsetto parla, invece il corsetto parla, perché tutti gli oggetti hanno un'anima. Un'anima, benissimo. Allora, vai. Ma tu parli. E non è questo che volevi? Cosa c'è di strano in un corsetto che parla? Ma stai scherzando? Gli altri non parlano. Ah, lo dici tu. Intendo dire, gli occhi di stoffa. Uffa, sei proprio una bambina senza fantasia. È che sono triste, mi sento sola. Senti sola? Cosa ti è successo? Sola. Cosa ti è successo? La mia mamma se n'è andata, ha litigato con papà. E mi ha portato a vivere qui. E lui mi manca tantissimo. Lo credo. Ma dimmi, perché se n'è andata? Non lo so, negli ultimi tempi litigavano. E alla fine la mamma ha detto che voleva vivere per conto suo, e così ha fatto. E tu? E io non lo so. Io per me stavo bene. Anzi, stavo benissimo. E lei mi ha portato a vivere qui. E qui come ti trovi? No, malissimo. Vado a scuola e forse male. Male era prima. Faccio i conti, ahimè. E un po' dopo, ma così da sola. La mamma non ha tempo per giocare con me. E poi mi manca anche Pippo. E chi? Il giappone. Ah, sì, me lo ricordo. Anch'io abitavo con te, mi hai chiamato così perché sono un regalo di tuo papà. E adesso capisci perché sono qua, no? Quella fuga precipitosa. Pensavo fosse un gioco, ma bambina mia, non pensiamoci più. Anzi, sai cosa ti dico? Proviamo a viverci questo momento come un'avventura. Ecco, guarda, non sei sola, diciamo che sei approdata su queste sponde come Robinson Crusoe. Oppure peggio, potremmo essere sull'isola del tesoro, eh? 15 uomini, sulla cassa del morto. 15 uomini. Ti fa tutto niente. Ti ricordi? È una bottiglia di rum, quella non basta mai, vero vecchia mia? Vecchia mia c'ha poca, vecchia mia. Oppure siamo capitati sull'isola che non c'è, capita l'uncino e tutta la banda, allora cosa scegli? Non saprei. Devi essere decisa, bambina mia, coraggio, scegli. L'isola che non c'è, allora. Bravissima, Gisella. Tu sei di Torino, vero? Sì. Questo diceva una beata, lasciamo lì. Mi senti lo stesso, no? No, no, ma non da solo fastidio. Bene, brava, comunque brava. Adesso andiamo avanti. Facciamo, chiamiamo una tua, un'altra ragazza che faccia chicca, la tua amica. Allora, c'è un'altra bambina che vuol venire, tu, prego. Grazie, benvenuta. Ti chiami? Lima De Già. Mi sa via per... Mi sa via Giuseppe, mi sa via per Giuseppe. Lima De Già, due Giuseppe. Sì. Guarda cosa c'è, Jackie, non ho detto. Due bimbe di Jackie, vabbè, ci vediamo, in fondo le bimbe di Jackie sono tutte le bambine del mondo, quindi è chiaro che voi giocate voi, no? No, se due Jackie, proprio due Jackie. Sì. Io sono un bimbo Jackie anch'io. Allora, adesso facciamo un'altra cosa. Dunque, qui quando le due amichette si incontrano, no? Tu ti incontri con la tua amica, o tu con la tua amica, perché se le due gente non si sa. Però tu fai chitta l'amico, ok? Allora, vai. Secondo me non devi più permettere a nessuno di metterti sotto così. Dice lì che entrando in camicia la notte col suo castorino in braccio. Facile per te. Mica ci devi dire, tu con la mia mamma. Lo so, ma se fossi in tempo di prendere lei, tu mica ci volevi venire qui, avevi così una bella casa. Io voglio tornare a casa mia, dal mio padre. Quando allora? Scegliere devi essere tu. Ma io non ce la faccio dire alla mamma. Non aveva diritto di portare via. Ma hai litigato con padre. E allora? Non sono mica fatti tuoi. Tu che cosa c'entri? Poteva andarsene da sola. Dimmi tu cosa c'entri. Niente. Lo vedi? Ti ha chiesto se volevi andare con lei? No, mi ha portato via da casa. Siamo usciti come tutte le altre volte, ma non sapevo se non saresti tornata. Noi bimbi non siamo proprietà dei grandi, siamo persone e abbiamo diritto di scegliere. Non ci chiedono mai cosa vogliamo. Ma vedi, esistono persone, i giudici, che scelgono per noi, ed è un giudice che sceglierà per me. Chi te l'ha detto? L'ho sentito dai grandi. Per me è una gran sciocchezza. Come fanno a sapere cosa abbiamo nel cuore? Se ti allontanassero dal tuo papà, tu ne moriresti. Per me già sarebbe diverso se i miei si separassero. Sceglierei la mamma. A proposito, tuo padre di cosa sta facendo? Si sta battendo tra giudici e avvocati per riportarmi a casa. Io sono la sua principessa e lui il mio cavaliere, pronto a salvarmi. Sai, mi sembra che il mondo mi sia crollato addosso, come un terribile terremoto. Pensi che la mamma voglia un giorno tornare a casa? No, è troppo tardi. Credo che nemmeno qua la vorrebbe più. Però a me manca la famiglia. Come te. Che bello vedere i tuoi genitori che si vogliono bene. Oh, sapessi come li digano. Ma intanto sono insieme. Voi mandate tutti, ancora tutti i miei amici. Io vorrei tanto che ci fossi di nuovo una mamma in casa mia. E vorrei anche fratellina. Stai scherzando? Affatto. Voglio rifare una famiglia. E tua madre? No. Ma tuo che papà troverà una donna che si deve, come si deve. Lo dice anche il papà. Vedi? Sei ancora convinta che il corsetto parli? Sei ancora convinta che il corsetto parli? Io credo di tutti i pupazzi abbiano un'anima. Anche il mio Bobby, no. Invece dovresti crederci. Ma non mi ha mai parlato. Ma tu perché non ti credi? Sei proprio una sognatrice, Giulia. Tu sei troppo seria. Dai, basta discutere, mettiamoci a nanna. Sì, con tutto quel lavoro oggi, col piccolo chimico, mi sono proprio stancata. Che belli i cristalli blu che abbiamo fatto. Li sono fatto di rame. Di rame, non di rame. È lo stesso, magari con le rame si fanno ottimi cristalli. E di che colore? Verde, come la strana soluzione che si è venuta oggi mescolando tutte quelle sostanze. Dov'è? In quel bicchiere là. Ma che cavolo ci hai messo? E che ne so, così, quello che mi veniva in mente, non so più neanche io. Magari un veleno, una bomba. E pensi che possa esplodere? Ma no, scherzavo. Bene, brave. No, come ho detto, con i pettegolezzi, i ragazzini, e i vostri pupazzi cominciano a prendere vita, no? In particolar modo il castorino, che si chiama Bobby, e poi Papi Pù, che è il pupazzo che è arrivato Papi a Giuseppe. Allora adesso ho bisogno di una bambina che faccia la parte del castorino, cioè di Bobby. Chi è che viene? Prego, vieni. Grazie. Prego, come... ciao, chi ti chiami? Siete un'etrina praticamente, un'etrina, va bene. Un'altra bimba Gegè, mi fa molto piacere Gegè. Allora, tu adesso fai Bobby. Allora, e le due amiche si addormentarono quasi nello stesso momento, con il loro pupazzetto accanto. Papi Pù, l'orsetto, Bobby e il castoro. Erano circa 2 di notte, quando, sollevata la testa dal cuscino, Papi Pù mi svegliò. Sei sveglio? Guarda come rompono le nostre due padroncine. Sembrano due bambole. Due pupazzetti, vuoi dire? Cosa facciamo stanotte, Papi Pù? Neanche tu vuoi dormire, eh? Troppo caldo. Mi è venuta una sete. Abbiamo qualcosa da bere? Come no? Whisky, vodka, rum? Spiritoso. Ci vuole una bibita fresca. Dai, andiamo a cercare nel frigo. Aspetta, guarda là. Dove? Sul tavolo di Gegè, lo vedi? Quel bicchiere. Mica vorrei bere quella porcheria. Non è una porcheria, l'ha fatta la mia padrona. Sì, ma hai sentito, nemmeno lei sa cosa sia. Parlavano di veleno, di bomba. Ma fino se quello è un veleno, allora. Castoro pipone. In effetti sembra più uno sciroppo di menta. I veleni non sono scuri, io me li immagino neri come l'inchiostro. Allora che facciamo, la mangiamo? Prima tu, grazie. Il solito furbetto. Ma ti sembra avanti gli altri, eh? Così te li porta a casa la pelle. Io bevo, sono troppo curioso. E io ti guardo, così se ti trasformi in qualcosa di strano. Caspita, che fegato, di che sta? Non male, una specie di yogurt alla mela. Ma non mi piace lo yogurt. Ma come fa? Ma non fare il vigile, bevi anche tu, su. E se poi muoio? Ma come fai a morire, sei un pupazzo. Ah sì, è vero. E va bene, proviamo a bere questo schifo. Beh, non sta capitando niente. Lo dici tu. Non vedi che la camera sta crescendo? È gigantesca. Guarda di Maria, sembra una montagna. Il soffitto già non si vede più. Hai ragione. Ehi, guarda quel ragno, enorme come un elefante. Aiuto, si gira verso di noi. Aiuto, così lo dice. Aiuto, se ne è aiuto, si sta divertendo. Aiuto, si gira verso di noi. preparatrice drammatica. Allora, ridi la battuta, aiuto? Aiuto! Aiuto! Aiuto a pulire il camion! Fallo tenere, tifona! Per fortuna sta continuando a crescere e già non si scorge più. Sai cosa ti dico, Bobby? Cosa? Non sono le cose che crescono, siamo noi che le stiamo rimpicciolendo! Proprio quello che temevo. Cosa ti succederà, papà? Niente, diventeremo piccolissimi. E lo chiami niente. Come faremo a tornare? Oh, sempre questa di tornare. Siamo appena partiti? Sì, ma per dove? Ma che te ne importa? La vita è un'avventura. Non chiedi dove vai. Vai e basta. Bravo, fai il filosofo tu. Io intanto non vedo più niente. Neanch'io, Ma solo perché le nostre dimensioni continuano a ridursi. Fino a quando? Non ti tengo a diventare un virus. Secondo me siamo già molto più piccoli di un virus. Non hai anche tu la sensazione di percepire, di precipitare nel buio sempre più velocemente? E come? Una paura tremenda. Dai, lascia andare, io non vedo l'ora di passare di là. Passare di là? Che stai dicendo? Di là dove? Credo che stiamo per fare un salto dimensionale. Come dite? Ma che trovo te in quella pozione? Che stai messo quella faccia della tua padrona? Bella idea, la fa di bene. Sì, fidati, e pensa che forse siamo i primi quartetti al mondo ad esplorare un'altra dimensione. Dovrei pure essere contento, ma tu sei più matto di lei. Ma pensa, Bobby, non siete un castoro catapultati nel mondo del... Ma Papà Pui non riuscì a terminare la frase perché tutto si fece buio e soltanto silenzio. Grazie, bravo. Una volta passati nell'altra dimensione, nella dimensione del mondo delle idee, che cosa trovate? Un campo di fragole, ma mica uno normale. È presente un campo immenso, migliaia di piantine, cariche di fragole, grandi come uova. Ti ricordi che gusto strano che avevano? Sì, sapevano di panna montata. Di? Panna montata. Le fragole? Sì, di panna montata. Vedi sulla fisica drammatica? È comica, le fragole che sono di panna montata non esistono, ma già dai, andiamo, su. Come fanno le fragole che sono di panna montata? Sapevano di panna montata. Vabbè, allora sentiamo perché. Ma sì, però dove con panna montata? Sì, però ci vuole un qualcun altro adesso, no? Marca Puc. Bisogna chiamare Puc adesso? No. Allora mi fai sbagliare, insomma. Allora, forza, andiamo avanti. Non è che siamo morti, papi Pu. Ragazzi, qui ci sbattono, ci tirano le fuori qua. Ma le figure pazzesche! A chi tocca? Allora sveglia, tu già, sì, ma andiamo. Ma sì, fragole con panna, sono. Ecco, questo. No, lei, ma io non ho detto. Ma ridigliela che non ha capito, ma resma maiala! Ridiglielo, ma sì, dai! Ma sì! Dai. Fragole con panna, fanno già di panna, così non devi nemmeno prepararle, sono già pronte. Mao, no, non è Mao, è wow! Wow! Un grido, non è Mao, chi è Mao? Mao, forse. È wow, wow! Quando uno ti dice andiamo al cinema che c'è Luigi, quello che ti piace tanto, wow! Luigi non sei in realtà, chiama Luigi. No, come si chiama? A me non è. Allora, è wow, un grido di piacere, dai, vai. Wow, ma il paradiso terrestre. Non è che siamo morti, papi Pu. Mi avete distrutto la carriera di 30 anni. Mi avete massacrato. Adesso io non lavorerò più per colpa di 1, 2, 3, 5, 6. A chi tocca, Cattarola? E dai, con questa storia, sempre la paura di morire, non si muore, siamo occupati, si può capire? E allora perché gli angeli stanno venendo verso di noi? Gli angeli arrivano spesso ad accompagnare i morti. Cosa cavolo dici? Quali angeli? Quelli strani essere luminosi, laggiù. Cosa sono per te, cappuccetto rosso della tua nonna? Sembrano due piccoli montanari, ma perché questa la luce azzurrina? Sono angeli, te l'ho detto, e noi siamo morti. Tenendosi per mano, i due ometti luminosi si avvicinavano con passo spedito. Comincia a spaventarmi, ma tu? Stai calmo, sono luminosi, non credo ci siano delle tenere. Vedi, sembrano due piccoli gnomi. Chi siete? Un orso e un castoro di peluche. Io sono Papi Pu e lui è Bobby. I due ometti si guardarono strizzandosi l'occhio. Ma è lo stesso, si fa per fare un po' di scenografia. Ci state vedendo occhio che parola! Mica l'occhio, ma l'occhio la si do così. L'occhio, al culo, una lì e l'altra. L'occhio destro? Strizza l'occhio destro. Strizza l'occhio, l'occhio sciamo e vada. Strizza l'occhio sciamo e vada. Sinistro. Palla! Ma chi ve la date questa ragazza? Ma non la dà avanti. Strizzarono l'occhio e, uno commentò. Chi è uno? Alla fai uno, guarda. Ho capito, sono due dell'altro lato. Quale lato? Ma che incazzata la testa, è incazzata. Vai, quale lato? Quale lato? Chiese Bobby. Lascia a me quello. Quale lato chiese Bobby? Leggila tutta, ma l'hai manpestata! Certamente questa vita non sembra possibile. Lo ricordi? Che non si toccano, si adorano. Si adorano? Si toccano. No, molto aperta. Si toccano, si adorano. Allora, adesso, parte, sei pronta? Beh, dovete sapere che nella chiava la mamma di Fontica la butta giù dal letto il domenica mattina per mandarla dalla nonna. Sai che una volta al mese ti invita a pranzo e non devi farla aspettare e non dimenticare di portarle questo album di fotografie di famiglia. Uffa mamma, proprio oggi devo andare in chiesa con le mie amiche e poi ci vado a fare dalla nonna che tanto non capisce niente. Non si discute. Cosa sto deciso e così sarà. Sì, gentile con la nonna, perché è molto anziana e qualche problema di memoria, lo sai, però non essere sfacciata. La casa della nonna era come tutte le case le formiche in una certa età, mobili vecchissimi, centri ricamati sulla tavola, conteiere dell'Ottocento e tazzine per il tè sempre pronte. E alle pareti ritratti di antiche fotografie di famiglia, i vecchi formiconi con tanti baffoni inamidati, uniformi da ufficiale dell'esercito delle formiche nere durante la grande guerra contro quelle rosse, anziane formiche con le antenne completamente grigie, nonne, bisnonne, schiere di posto, insomma il solito sacrario dei ricordi, con tanto illumini accesi, fiori secchi e profumo di biancheria pulita e di fiori di lavanda. La nonna era vestita come una formichina di 100 anni fa e tanti dovevano essere gli anni che lei mostrava. Chi sei? Cosa vuoi domani dalla nonna? Ciao nonna, sono Fontica. Con chi? Fontica, nonna, Fontica, sono tua nipote. Nipote detto! Mi prendi dire che non ho nipoti? Nonna dimentica, sono tua nipote perché sono figlia di tua figlia. Quale? La secondina, l'hai chiamata così perché ti è nata dopo la femmina. Non mi ricordo. Contica allora tirò fuori dallo zainetto l'album di fotografie e lo mostrò alla nonna. Vedi, lei conosci? Ma te c'è Contica? Brava nonna, e io sono Contica, ecco qui, avevo un anno. Oh, ma tu sei con... come si chiama? Tu sei... Contica. Contica, sì, mi ricordo, sono un po' rincoglionito, mi ricordo, perché non è subito che eri tu, la nostra momentina sospirò, il primo ostacolo ha superato. E cosa ci volete fare? A trovarti e a mangiare, cosa sei buono? Per quale motivo vorresti mangiare adesso? Forse perché ora il pranzo, un po' fa, mi invitato tu. Io? Sei fuori di testa? Io non invito mai nessuno. Nonna, è domenica e la vostra mente mi inviti a pranzo, e tutte le volte la stessa. Ostia che domenica non devo andare a lavorare, che ore sono? Sono tardissimo. Calma nonna, prima di tutto di domenica non si lavora e poi sei pensione da tanti anni. Sono già in pensione, c'è scuola. Senti, perché non andiamo a tavola? Che cosa hai preparato per la tua cucina? Le migliorate in agnolotto al sugo di mosciolino, briciole di pane con arrosto con patate? Niente, non ho preparato un bel niente. Se mi avessi detto che prima saresti venuta, forse qualcosa preparavo. Ma nonna, mi hai invitato tu, e ora mi dici che non c'è niente da mangiare. Senti, mi dispiace, non ne servo niente. Come potevo immaginare che tu, ma tu chi sei? Contica, nonna, ti sei già dimenticata. Con che? Contica, tua nipote. Ma ti conosco. Come ti permetti di entrare in casa mia? E ho venuto per chiedere se per caso avessi bisogno di qualcosa, gentile signore. Oh, ma che cara bambina! Siete da Sant'Orbicato? Forti un cento? Stavo per dire una roba. Siete da Sant'Orbicato? Grazie, non ho bisogno di niente. Allora, andare. Certo, bella bambina, ringrazio i tuoi capi e buonanotte. Applauso, grazie. A me è piaciuto un sacco il cane Pippo, che poi è una femmina, no? Sì. Stavo da con te. Che poi è una femmina, ma si chiama Pippo perché? Perché assomiglia a Pippo di persona. Ecco. Adesso, quello è un... com'è la cosa del newyorkese che tu lo sai? Il newyorkese ha il capello corto. Sì, perché invece ha il capello lungo, Sì, ma è chiaro. Sì, perché invece il newyorkese ha il capello corto. Ma la ragazza mi parla dalle papi, non esiste mica, se non è il modo dell'invisibile. Beh, certo, lì c'è tutto. Ma senti un po', burlone, questo papi, diciamolo, Sentite, è un burlone questo papi. Sentite, ma quello del serpente che me la raccontate? Sì, dai quella dove siete nel deserto, là di là, da Ping e Punk, Ti ricordi? me lo ricordo. Io ho detto, basta, non voglio camminare, non mi muoverò da qui per nessuna cosa al mondo. Protesta sindacale. Sì, ma il castoro cosa ti ha detto? Neanche per fuggire ad un serpente? Neanche. E poi, serpenti, qui non ce ne sono. Serpenti? Serpenti, quanto... Serpenti. Serpenti, serpente, serpenti. Vai. Davvero? Allora è quella cosa più difficile. La ragione è... Dobbiamo fare qualcosa. Certo, non possiamo lasciarla così. Cosa pensa questa gente? Per lei è dura, ma deve imparare a reagire, a trovare in se stessa la forza. La famiglia deve sempre stare unita e i genitori devono sempre pensare prima. Eccellenza. Parlo io alla bambina. Ascoltami bene, figliola, rispondi sinceramente. Perché vuoi tornare con papà? Perché con lui sto bene. Pensi, eccellenza, che riusciamo perfino a comunicare col pensiero. E facciamo cose bellissime, mi manca tanto. Beh, ma lo può vedere ogni tanto. Ma non è la stessa cosa. Quando tornava a casa la sera i piccoli volevano un incontro studentale. Questo non esiste più. Sapevo che c'era, che veniva a baciarmi anche se da dormivo. Capisci? Un papà ora, non è più la stessa cosa. Capisco. E la mamma? Le vuoi bene la mamma? Sì, tanto. E la mia mamma? Non è che preferisci tornare con papà perché sei arrabbiata con la mamma? No, sono arrabbiata perché non ho più la mia famiglia. Perché vorrei stare nella mia casa, vorrei scegliere io. Ma i giudici non interessa quello che dice. A me interessa? Tu sei diverso, tu riesci a capire che quello che trova un bambino va rispettato. Non sono un cane o una neonata, ho quasi 10 anni. Se sono matura per l'analisi logica, per la matematica, se ho imparato a ragionare e a studiare. Se ho sofferto tanto, e ho i grandi di il dolore di maturare, perché non posso scegliere io la mia vita? Dimmi perché la tua mamma se n'è andata. Non andava più d'accordo con papà. Quindi anche tuo padre ha le sue responsabilità? Sì, ma io penso che tutto si possa aiutare se vuole, invece di far sempre guerra. Beh, ricorda di bambino, nessuno è veramente colpevole e nessuno è completamente innocente. Te lo dice un giudice. Voglio che tu impari a perdonare, a rispettare, a cercare di capire le scelte degli altri, anche se possono far male. Allora vedrai che il mondo a sua volta rispetterà le tue leggi. Non conosco le leggi dell'altra parte del mondo, da dove tu provieni, ma so come il mio millenario buonsenso ha valutato la tua questione. La mia sentenza è che tu ritorni a vivere a casa tua insieme a tuo padre. L'hai scelto, quindi è il tuo bene. Sei molto più matura della tua età, potresti insegnare ai tuoi genitori. Non do ragione o torto a nessuno, ma tu devi tornare a star bene. Hai bisogno di qualcuno che cerchi di ricucire le tue ferite. Grazie, eccellenza. Torna a casa tua, scrivi una lettera al vostro giudice, scrivila con il cuore, con quello stesso cuore che hai dimostrato di avere oggi. Vedrai che il giudice cercherà di capirti con amore e con rispetto per la tua persona. Grazie, genere. Scusi, signor giudice. Come devo chiamare il giudice, così? Come hai chiamato me? Va benissimo. Sua eccellenza, altezza, servizio. Adesso la parola torna a Massimo, dottor Massimo Citro. Posso prendere un troppo? Non so più qual è quello buono. Beh, prendi tutti e due, uno dei due è buono. Tutti e due, sente? Sì, quello buono. Oh. No, senti, pronto? Aspetta, andare. Ci siamo? Io ho già timore quando arriverà il conto di Marco. La parcella, no, per il cachet, dopo questo. No, mi sono divertito molto, devo dire. E noi ti ringraziamo tantissimo che ci hai regalato questo pezzo di vero teatro. E ringraziamo anche le cinque bimbe, che in totale hanno 60 anni, per rovinare i tuoi 30 anni. Hai capito? Al doppio per... Bel lavoro hanno fatto. Allora, sì, io sono qui in veste di presidente di questa associazione Democrazia che ha organizzato tutto, ho anche dimenticato di scrivere in meretto quella frase, il lavoro nelle lattate non è stato abbastanza. Sì, il messaggio parte proprio dal fatto che, come vedete, bimba Gegè noi non sappiamo chi sia, non è importante, può essere una di loro, può essere fuori di qui. Bimba Gegè, come diceva Marco, è tutti i bambini del mondo e a noi interessa il messaggio, non tanto, un po' come il milipegnolo, no? Interessa quello che significa, il simbolo. Allora, perché oggi, grazie a questo libro, noi vogliamo far partire il secondo dei nostri progetti, e cioè il progetto Ascoltateci. Il nome già dice, vogliamo che finalmente il mondo ascolti anche i bambini. I bambini nel caso di separazione non sono ascoltati, come dicevamo prima. I giudici, e con loro tutto il concetto di psicologi, sociologi, parlo per maggioranza ovviamente, non mi riferisco a casi personali, ma la maggioranza, avvocati spesso anche, genitori ovviamente, tendono a usarli come merce di scambio, come mezzo di ricatto, come fonte di reddito. Non dimentichiamo che quando un genitore chiede l'affido esclusivo, chiede soprattutto soldi, se ci parliamo chiaro. Allora, questo non va bene, perché a livello etico lede il principio della libertà, e la libertà di scelta e di movimento è sancita dalla Carta dei diritti dell'uomo e inizia con la nascita e finisce con la morte. Non c'è un'età in cui uno diventa libero e poi non lo è più. Lo stesso discorso vale anche per i vecchi. Attenzione che nelle due età estreme, i più giovani e i più vecchi perdono oggi purtroppo il diritto di scegliere. Se noi vogliamo mettere nel pensionato il nonno o la nonna che ormai dà fastidio, se ci parliamo chiaro, lo possiamo fare, non c'è una legge, se l'altro ovviamente non vuole, che lo tutela. Ma torniamo ai bambini. Allora, alcuni obiettano, ma la libertà è condizionata comunque da una maturità, perché il bambino a 5 anni non può essere ascoltato dal giudice perché non è maturo. Allora, a parte che i bambini per lo più sono più maturi e più profondi di noi, secondo me. Ma poi, scusate, ma se la libertà dipende dalla maturità, avremmo quasi tutta la gente in carcere, scusate. Ma non è così. La libertà è un fatto naturale. Quindi, deve essere tutelata. A un bambino di 5 anni può dire, di fronte a un giudice che gli chiede, anzi, io scusate, penso anche a un altro scenario, perché di solito pensiamo, ma il bambino che entra nel tribunale è uno shock. Io l'ho sentito dire, facendo il medico, sento anche noi dei pazienti, e sono scusate le fregnacce, perché intanto il bambino che si sciocca perché entra in un tribunale, lo devo ancora vedere quando sta davanti alla televisione a vedere le cose più crude che esistono, lì non si sciocca. Comunque, se non proprio si sciocca entrare in un tribunale, non sarebbe male che il giudice andasse a casa del bambino e si chinasse su di lui, come fa il giudice a Genova, e gli chiedesse, ma tu stai soffrendo, perché ricordatevi che la fine di una famiglia per un bambino è la distruzione del suo mondo, quindi sta soffrendo terribilmente, e dice, senti, tu soffri, che cosa vuoi? Cosa posso fare per te? Perché quando uno sta male, gli dobbiamo chiedere cosa vuole lui, non imporre cosa vogliamo noi. Allora il bambino può anche dire, beh, io ho le idee chiare, in questo momento voglio stare con lui, con lei, oppure con nessuno dei due perché mi hanno rotto tutte e due, oppure non so scegliere, e allora fai tu. Ma intanto glielo abbiamo chiesto. Questo è quello che noi vogliamo. Chiediamo di cambiare questa legge, partiamo proprio oggi, qui, per chi vorrà aderire ovviamente a questo progetto, per essere in tanti a livello nazionale e far sì che questo scempio finisca. I bambini non devono essere più usati come mezzo di scambio, eccetera, quello che dicevo prima. Quindi chiediamo anche che i giudici vigilino su questo. Poi vi è stato già dato un foglio, dove c'è un riassunto, adesso poi lo vediamo rapidamente, della nostra azione. Ci sono tante cose da dire, aggiungo, perché questo è un mio enzo, che recentemente è stata riconosciuta già nel mondo anglosassone, adesso arriva anche da noi, una sindrome che si intitola sindrome da alienazione genitoriale, che è un fatto proprio clinico vero e proprio. Allora, io ho preso questo da Wikipedia, chiunque lo può andare a cercare. Nei paesi anglosassoni si è stabilito che questo disturbo insorge quasi esclusivamente nelle controversie per la custodia dei figli, quando un genitore, che diventa l'alienatore, attiva un programma di denigrazione contro l'altro. Non è una semplice questione di lavaggio del cervello, che spesso succede, poiché la sindrome si ha quando anche il bambino fornisce il suo contributo alla denigrazione. Allora, la combinazione dei due fattori fa sì che ci sia questa sindrome. E ovviamente ci sono varie manifestazioni, ma questo è molto grave, perché il bambino può andare incontro a un sacco di patologie da grande dovute al fatto che si è schierato con un genitore alienante contro l'altro, oltre al fatto che anche l'altro genitore va incontro a depressioni e patologie, perché io ho avuto dei casi dove ad esempio un paziente mi raccontava che la moglie, per fargli dispetto, nel caso della situazione, un bambino di 4 anni, ha detto a un assistente sociale di aver colto una certa frase, una parola, mentre il bambino parlava, che faceva pensare che il papà forse lo molestava mentre lo vestiva, lo svestiva, è scattato su un rebelotto, dicono a Milano, per cui giudice eccetera hanno proibito al papà di vedere il bambino, e questo con dei danni su tutto sulla base di una sciocchezza. Allora io ho un caso, anzi avevo, perché purtroppo è finito male, di un paziente al quale molti anni prima la madre, insomma la ex moglie, aveva fatto un bruttissimo scherzo, aveva fatto non so che cosa, quei giudici ha fatto sì che queste due bambine non potessero essere più visitate dal padre, e ovviamente ha fatto scattare questa sindrome. Le due bambine plagiate non hanno più voluto vedere il padre anche quando erano grandi, si sono sposate, il papà non ha potuto andare neanche al matrimonio, ovvero comunque si sentiva rifiutato, non era stato invitato, e questo papà si è suicidato l'anno scorso. Allora, attenzione che stiamo facendo danni ai genitori, ai figli. Questa situazione passa sotto silenzio, perché noi tutti qui sappiamo che esiste, però non c'è nessuno che dà voce a questo problema. La nostra associazione Democrazia ha questo intento di cercare di dare voce, pure volontariato ovviamente, a chi non è ascoltato. Ci sono, lo troverete se uno vuole cercare su Wikipedia, 8 sindromi primari che definiscono la sindrome. Io vorrei solo sottolineare però quello che viene scritto da chi ha compilato questo articolo, che il dottor Gaetano Giordano afferma che l'attuale sistema sociale di gestione del conflitto coniugale cosa fa? Crea un problema la cui unica via di uscita è entrare in una cultura di condivisione, e infatti abbiamo l'affido condiviso da 2 anni, ma attenzione che fortemente questa condivisione è ostacolata da quelle stesse regole di un sistema che vive e guadagna dal conflitto che vuole risolvere. Quindi siamo di nuovo nell'ipocrisia, nel buonismo. Si sente sempre dire gli avvocati, cioè, nell'interesse primario del minore, l'interesse primario del minore è quello che vuole il minore, scusate, non quello che ha deciso i minori. Perché poi succede anche questo, che il bambino, che prima era membro della famiglia, quindi condivideva, andiamo a Cina, andiamo a vedere questo, cosa facciamo nelle vacanze, d'improvviso viene escluso. E lui non capisce più, dice, come mai, adesso papà e mamma sta facendo cose strane, e dobbiamo tenerlo fuori perché povero bambino, questa è una bella scusa, perché così facciamo quello che vogliamo alle spese sue. Poi allora questo bambino che sta fuori, passano gli anni, è povero cretino, perché non può dire la sua nella sua vita, in quello che lo riguarda non può entrare in scena, è, parlando in termini teatrali, uno spettatore, non il protagonista della sua vita. Poi la scuola, quando arriva alla maturità, dice, suo figlio non è maturo, ma che per forza noi stiamo costruendo delle generazioni di c'è anche quel rischio. Quindi ritorno alla sindrome, per concludere il discorso della sindrome, qui c'è scritto: per governare gli affetti ci si sta appoggiando a un sistema globale di antagonismi. È vero, perché abbiamo l'affido monogenitoriale, che fino a poco tempo fa dava nel 90% il bambino alla madre, perché abbiamo una magistratura, lasciatemelo dire, femminista nel senso negativo della parola. E questo rafforzava i termini di una lotta tra un vincitore e un vinto. Questo deve finire. I figli che parte fanno, dice sempre l'autore, rivestono il ruolo dei civili inermi in una guerra che gli si è buttata contro. I veri sconfitti sono loro, e il trattare i figli come non persone vuol dire proprio creare, fare di loro dei semplici mezzi per sfogare le rabbie e tutto il resto. Quindi questo è un po' il nucleo. Allora, io vorrei anche dirvi che cosa siamo noi, chi siamo, noi dell'Associazione Democrazia, che poi viene fondato ufficialmente oggi, perché prima eravamo Comitato Spontaneo e poi siamo diventati associazione recentemente. Noi ci basiamo l'associazione per il diritto di scelta, quindi lo scopo è difendere tutti i diritti di scelta. Siamo partiti con un primo progetto che ha visto inaugurare sempre il nostro mappo, che inaugura i nostri progetti, il progetto Prometo per il diritto di scelta degli universitari, per poter finalmente accedere, anche qui abbiamo un numero chiuso che blocca le future carriere dei nostri giovani, perché si dice più di tot noi non facciamo entrare all'università, quindi se tu vuole fare il medico la fare l'architetto, ma a noi non interessa. Allora abbiamo gli studenti che fuggono all'estero per andare a studiare quello che si vogliono, non abbiamo diritto di violentare, penso, l'anima e l'aspirazione della gente, però è così, ogni anno migliaia di ragazzi italiani vanno a studiare all'estero e poi si parla di fuga dei cervelli, e loro fuggono già prima. Il professor Tovigliato è stato con noi, può testimoniarlo anche nella, battaglia che abbiamo iniziato, battaglia pacifica ovviamente, iniziato con la primavera studentesca il 21 aprile scorso, ci sembra la pioggia così, non è con la riga, non è costato, un giorno te la facciamo vedere con il sole. Faccio tanto la pioggia io, nella pioggia. Infatti. E tutto questo perché noi vogliamo, abbiamo chiamato democrazia, perché siamo andati a rispolverarci le origini della democrazia, quella di Pericle, nell'Atene del V secolo, è lì che è nata la democrazia, il nome viene da lì. E se voi vi leggete Pericle, nella lettura più facile di stasera, vado a letto, mi leggo Pericle o Tucidide, che ne parlo, però se andate a rivedervi queste cose, scoprirete anche voi che non c'è nessun paese al mondo oggi che applica la democrazia. I principi democratici non esistono. Allora, per essere brevi, la democrazia per Pericle nasce dal connubio tra il pubblico e il privato, dove però lo Stato non deve mai assoggettare il privato, ci deve essere l'estremo rispetto per il privato, cosa che mi pare non la sottolineerei neanche oggi. Il pericleo vivere a modo proprio non vuol dire faccio quello che voglio nel prego degli altri, è il diritto alla felicità, pensate, e non so a quanti di noi fin da piccoli hanno detto e ci hanno cresciuto dicendo che una delle cose più importanti per noi uomini, esseri umani, è la felicità, e abbiamo diritto a essere felici. Pensate che Pericle parla di spensieratezza, di una sana spensieratezza, di cultura dell'ottimismo intelligente, di difendere comunque l'individualismo in tutte le sue forme, ovviamente intelligenti. Cioè quello che dice per divertirmi vado a bruciare quello che dorme per la strada non è intelligente, quindi non rientra in questo. Il godimento dei diritti del corpo e della mente, e in questo rientra l'ideale di pace. Io mi chiedo, come possiamo pensare di costruire la pace? Siamo tutti per la pace, io non sento mai nessuno, per fortuna, che dica, diciamo, sono per la guerra. Però qual è l'atto pratico? Dov'è? Cosa facciamo? Perché se viviamo già in un paese dove ci mettono sempre uno contro l'altro, no? E la destra contro la sinistra, e quello contro quell'altro, e già creiamo questo antagonismo, si potrebbe, come diceva Bimba Gegè prima, superare ragionando e dialogando. Allora, ancora, uno dei principi della democrazia che io oggi non vedo, non so se qualcuno lo vede, l'etica dell'iniziativa e dell'investimento deve essere premiata. Il giovane che dice, io ho un'idea, vorrei fare questo, io, per carità, entriamo nelle burocrazie, in tutte le difficoltà in questo mondo, per far sì che tutte le potenzialità dell'individuo siano liberamente esplicate. Lo sapete che l'articolo 3 della Costituzione, tutti conoscete la Costituzione italiana, l'articolo 3 che è il cuore della Costituzione viene direttamente da Pericle, perché dice a un certo punto, non ve lo leggo tutto, che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Questa è la democrazia, figuriamo. No, non viene applicato, noi siamo incostituzionali in un sacco di leggi. Tra l'altro, nel foglietto che vi è stato dato, vedete il riferimento di chi ha commentato l'anno scorso, la 70esimo anno della Costituzione, dice, costui, è vietato emanare leggi che contengano discriminazioni per Costituzione, affinché tutti i cittadini abbiano le famose pari opportunità. E l'articolo 3 dice, letteralmente, che bisogna vietare ogni diseguaglianza di diritto fondata sulla nascita, sull'età, eccolo qui, invece già, sull'età, sugli handicap, tendenze sessuali e tutto quello che sono le diversità di oggi. Una legge che introduca discriminazioni fondate su queste categorie è illegittima. Quindi la legge o le leggi che attualmente regolano la condivisione, comunque insomma l'affido dei minori, dei minorenni, a nostro avviso sono illegittime, sono incostituzionali, così come la legge sul numero chiuso. La libertà. Sottolineo ancora due cose. La nostra associazione ovviamente è apartitica, noi dialoghiamo siamo fuori dalle logiche dei partiti, siamo per il consenso che si può trovare da una parte e dall'altra, a volte non si trova da nessuno. Ci basiamo su tre principi che sono storicamente quelli della democrazia: la libertà, che è appunto il diritto naturale dalla nascita alla morte, l'uguaglianza, che fa sì che si tuteli la libertà nel privato, e la solidarietà, ricordandoci che siamo appartenenti alla società umana. Infine, siamo non violenti e manteniamo però saldo per noi il principio della disobbedienza civile. I nostri padri storici a cui guardiamo sono Rita Vittorò, Walt Whitman, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Ernst Jünger e tanti altri. Ok? Quindi arriviamo a questo, così poi concludiamo, l'autodeterminazione dei bambini. Chi vuole aderire a questa operazione, a questo progetto Ascoltateci, sa che noi chiederemo a qualcuno, qualcuno che voglia esporsi, che voglia portare avanti a livello politico questa idea, alle istituzioni, che appunto venga fatta una nuova legge affinché che abbia però almeno dei punti fermi. Sono quegli 8 che avete segnati lì, e leggo soprattutto il primo, che è importante: per ogni essere umano a qualunque età, ogni essere umano, scusate, a qualunque età, appartiene esclusivamente a se stesso. Dal momento della propria nascita fino a quello della morte ha piena libertà di scelta, di movimento, di decisione per qualunque cosa riguardi la propria persona. Voi capite che questo progetto poi si allargherà, noi volevamo già partire col progetto sulla libertà di scelta terapeutica, che non è soltanto un curo con la medicina naturale, che è un diritto, perché visto che in Francia sono pagate per metà dallo Stato, non vedo perché l'Unione Europea, che doveva renderci tutti uguali, da noi ce ne devono pagare, ma anche quello di dire: sono arrivato all'estremo della mia vita e consapevolmente la mia dignità mi impone di staccare il respiratore, io ho il diritto di farlo, perché nessuno Stato ha il diritto di impormi quello che vuole, né Stato né altri organismi. Libera Chiesa in libero Stato. I bambini non sono proprietà di nessun genitore, tornando al nostro tema. Bisogna coinvolgere in primis i bambini in quello che sta succedendo, con molta delicatezza, è chiaro, ma con molto affetto e molta determinazione. È una difficoltà della vita, i tuoi genitori si sono separati, cerchiamo di trovare la migliore soluzione, cerchiamola insieme. Il giudice deve appunto chiedere ai bambini quello che si vogliono, e stare attento, perché deve vigilare quando si accorge, che succede tutti i giorni, che qualcuno ci vuole lucrare su questa storia, prenderà i suoi provvedimenti. Allora, per concludere, voi avete visto già nelle immagini molti personaggi pubblici che, prima ancora, perché il progetto viene battezzato oggi dal nostro Marco, che è il padrino di battesimo del progetto, li vedete anche qua, così tutti li abbiamo raccolti qui. Io li voglio ringraziare e li ricordo tutti, perché hanno aderito un po' da tutte le parti del mondo, parte il nostro Marco. Abbiamo Dustin Hoffman, che già con Canna contro Canna aveva trattato tutto questo, ha scritto che è onorato di partecipare al progetto. Restando negli attori abbiamo Eleonora Vallone, Eddie Angelillo, Chiara Sani, Virginia Alba, Valeria Knight, Antonio Squitieri, che fa le imitazioni, il nostro Beppe Rosso qui di Torino. Tra i musicisti ricordo Lino Patruno, Sergio Caputo, Dario Cellamaro, che aveva cercato anche di venire qui oggi ma non c'è, il direttore tecnico della Ferrari Oscar Berselli, la stilista Sabrina Ghio, il plurilaureato psicanalista, ex docente ed ex rettore universitario Gabriele Mandel, il nostro Ernesto Rivero del Cernig, il consigliere regionale professor Mariano Turigliato, e spero anche qualcos'altro, perché il consigliere regionale non si può dire. Si può dire? Poi Gianni Pirea, console onorario di Albania, la grande pianista concertista Raffaella Portolese, che probabilmente era nel gruppo di quelli di sopra che non sono riusciti a entrare, la nostra Giuditta Denver, che si scusa, mi ha chiamato proprio nel momento in cui stavamo venendo qui, fino all'ultimo ha cercato di venire, aveva troppi dolori e non ce l'ha fatta, però è sempre con noi ovviamente, Manuela Pompas, Tino Scaccia, Stefania Bardini, Marina Marcorana, Cristina Camuschi, sempre fra conduttrici Radio TV, ma anche attrici, altro, abbiamo Francesca Della Valle, Selvaggia Lucarelli, Roberta Zanfranceschi, qua abbiamo i cantanti, solo di progetto Ascoltarci, oltre a quelli che già avevamo nell'altro, Donatella Rettore, Cristiano De André, Maria Dangher, Marco Carena, Sharon, May Lynn, una cantante americana, e forse Milva, perché devo aspettare l'ok burocratico, ma è già nell'altro progetto, il calciatore Riccardo Cacà, Alessandro Nesta e così via. Ultimissimo, abbiamo avuto anche dal presidente della regione Piemonte un messaggio lo leggo, è brevissimo, gentilissimo Massimo, ti ringrazio molto per l'invito, sarò invitata per oggi, ma purtroppo impegni istituzionali precedentemente fissati non mi permettono di essere presente, vi faccio i migliori auguri per la vostra bella iniziativa. Cordiali saluti, Mercedes Espresso. Allora io ringrazio tutti. Ringrazio voi che siete venuti qui e quelli che non sono riusciti a entrare. Ringrazio, permettete, Mauro Russo, il mio amico che ci ha aiutato a organizzare questa splendida giornata. Ovviamente il Comune di Torino e tutto lo staff di Villa Moretti che ci ha ospitato. Adesso